siamo posizionati così al decimo posto, credo, da parecchi anni. I dati a cui fa riferimento sono quelli del 2009, quindi non sono i dati del 2011 che noi abbiamo, ma che non sono sostanzialmente cambiati. Vorrei fare una precisazione sulla Grecia. La Grecia ha 6.000 euro più di noi medi. Bisogna dire una cosa: in Grecia, intanto, nel 2009, non c'era e non c'è nemmeno oggi la manifattura, non ci sono gli operai in Grecia. Prevalentemente questo dato è rappresentato dai dipendenti pubblici. E in Grecia è evidente più che da noi come i dipendenti pubblici per molti versi hanno una composizione interna che tende ad alzare il salario, tende a far lievitare il salario medio. In effetti, come dicevate prima, noi abbiamo, il nostro problema non è tanto, non sono i 500.000 euro di un capo di Stato maggiore, ma sono i 400, i 300, i 350, i 250 dei secondi e dei terzi livelli. Allora, questo era per spiegarle perché 29.000 euro in Grecia.